Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Proseguire l'esperienza Erasmus facendo ricerca in Grecia. Oggi vi vogliamo davvero stupire con la storia della settimana che ci porterà in uno dei paesi europei probabilmente più insoliti per un periodo di formazione oltre confine. Eppure, come vedremo, ne vale la pena. Continua, come avrete capito, il nostro viaggio tra le opportunità formative offerte proprio dal programma comunitario Erasmus+. Tornano a farci compagnia anche le lettere che inviate settimanalmente a giovanitalenti@radio24.it e attenzione, è partito il countdown verso la chiusura di Giovani Talenti in Europa, terz'ultima occasione utile per partecipare. Inviate il vostro racconto e ricevete il vostro pass per una visita a Strasburgo. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del cardinale Angelo Bagnasco. Il fenomeno dell'esodo all'estero di migliaia di giovani in cerca di lavoro e di futuro ricorda migrazioni antiche e dovrebbe farci comprendere meglio le migrazioni attuali di rifugiati, certo, ma anche di tanti in cerca di fortuna. Ne parlano davvero tutti, di giovani immigrati per scarse opportunità, eppure i problemi strutturali restano, come dimostrano i numeri. In Italia poco più di un quarto delle persone con meno di 30 anni lavora, contro il 47% nell'Unione Europea e il 57% in Germania. Il dato è contenuto nelle statistiche Eurostat riferite al 2015. Il divario è consistente soprattutto a causa della scarsa occupazione tra le donne. E proprio una giovane donna è la protagonista della storia di questa settimana. La prima cosa che ho potuto notare qua, ad esempio, è stata la grandissima ospitalità dei greci. Comunque la città a me piace molto. In generale ho viaggiato un po', ho visto qualche isola e davvero sono rimasta davvero stupita in modo positivo, quindi mi trovo benissimo. Vitalia Pessa, 21 anni, è una microbiologa tirocinante con borsa Erasmus+ all'interno dell'Università di Atene. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziario. In apertura ricordiamo che c'è tempo solo fino al 2 maggio per accedere alle agevolazioni fiscali per i lavoratori controesodati optando per il nuovo regime agevolato. La misura consiste in una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30% per l'anno d'imposta 2016 e del 50% a partire dal periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi successivi. Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate. E adesso l'intervista di Giovani Talenti alla commissaria europea per l'occupazione e la mobilità lavorativa Marianne Thyssen, intercettata in una sua recente visita in Italia. Alla commissaria Thyssen abbiamo prima ricordato l'elevato tasso di disoccupazione giovanile in Italia e poi le abbiamo posto una semplice domanda: cosa fa per questi giovani l'Unione Europea? We have our Youth Employment Initiative and our Youth Guarantee System. So young people have to go to the public employment services and other services indicated by the government. Abbiamo lanciato l'iniziativa per l'occupazione giovanile e la garanzia giovani, dice Marianne Thyssen a Giovani Talenti. I giovani devono verificare coi servizi pubblici cosa può essere offerto loro. Noi come Europa mettiamo a disposizione denaro fresco nel bilancio comunitario per i prossimi anni per sostenere questi servizi, soprattutto in Italia. La Commissione è focalizzata sulla creazione di lavoro e sulla crescita economica. Abbiamo le politiche sociali da un lato e la creazione di lavoro dall'altro. Tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo e spero che ciò possa portare presto notizie migliori per i giovani italiani. Così la commissaria Thyssen. And I hope that this can soon bring better news for young people also here in Italy. Attenzione però, una doccia fredda proprio su Garanzia Giovani è arrivata recentemente dalla Corte dei Conti Europea. Il programma comunitario aveva un obiettivo troppo grande per le sue possibilità e quindi ha fallito la sua missione. Secondo la Corte, in nessuno dei 7 paesi in cui è stato implementato, Italia inclusa, lo strumento è riuscito ad assicurare un'offerta che rispettasse i tempi e che aiutasse davvero a inserire i giovani nel mondo del lavoro. Informazione di servizio, il governo australiano ha annunciato una duplice stretta sui visti di lavoro permanenti per gli stranieri e sulla cittadinanza. Chiave di volta l'abolizione del 457, il programma tipo per stranieri, con una durata di 2 o 4 anni. D'ora in poi si chiamerà Temporary Skills Shortage e sarà concesso solo per una circoscritta rosa di professioni specializzate di cui ci sia temporanea scarsità di manodopera. Per il visto di 2 anni, quello più accessibile, si riducono a 436 le professioni per le quali si può fare domanda rispetto alle 651 attuali e non è più prevista la possibilità di chiedere un visto di lavoro permanente. Regole d'accesso più severe, con esami di inglese più stringenti e una maggiore selezione. Secondo Just Australia, i giovani sotto i 31 anni possono continuare a chiedere un visto vacanza lavoro della durata di un anno da poter rinnovare per altri 12 mesi a patto di svolgere 88 giorni di impiego agricolo. Chi ha oltre 31 anni può optare per uno student visa, un visto di studio e lavoro part-time. Prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 13 maggio e che da questa edizione vi chiede di raccontare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo tre di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare, lo ricordiamo, dovete avere tra i 18 e i 35 anni e dovete inviare da adesso fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri, spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti su esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve l'immaginate un periodo di studio o lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte coi dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione! Potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave imprescindibile per poter partecipare, e quella di questa settimana è Europa 3, ripeto, Europa 3. I tre racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo il prossimo ottobre. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a novità assoluta per noi in Grecia, paese che nonostante la crisi può riservare sorprese davvero interessanti per chi intende proseguire la propria formazione in Erasmus. Nome: Vitalia. Cognome: Pes. Età: 21 anni. Città di origine: Ossi. Studi: Biotecnologie. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2016. Per andare dove? In Spagna, la prima volta. Perché? Per una mobilità ai fini di studio con un progetto Erasmus. Cosa studi attualmente? Biotecnologie. Dove? Nell'Università degli Studi di Sassari. Cosa farai da grande e dove lo farai? La ricercatrice, suppongo all'estero, ma spero di tornare in Italia. Erasmus è sicuramente un'esperienza che consiglio a tutti gli studenti universitari, poiché cambia profondamente il modo di ragionare di chi lo vive. Così Vitalia riassumi il succo della tua storia di mobilità all'estero. Come si diventa? Come si matura dopo un Erasmus? Io penso che l'Erasmus sia innanzitutto un'esperienza prima di tutto di vita. Quindi per me, come per molti altri studenti, è la prima esperienza di vita all'estero, e quindi senza la tua famiglia, senza i tuoi amici, senza conoscere magari una lingua nuova, ti trovi da subito costretto ad arrangiarti, quindi dalle cose più stupide al dover crearti, diciamo, una rete di amicizie, al dover imparare una lingua nuova. E quando riesci a gestire tutto questo, appunto, diventi adulto, e per questo ti rende maturo l'Erasmus, secondo me, ti costringe a crescere, diciamo. Tu sei vicina alla laurea, ti sei avvicinata all'università con un sogno: diventare una brava ricercatrice. Così scegli biotecnologia, Università di Sassari. Perché proprio quest'area? Perché mi piacciono le materie scientifiche. Da sempre ho studiato in un liceo classico prima, le materie dove andavo meglio erano quelle scientifiche, appunto chimica e biologia, e poi col passare degli anni è nata una passione per la medicina e quindi ho fuso le due cose, diciamo. Vorrei diventare ricercatrice in campo medico. Allora, soli tre esami dalla laurea triennale, qual è il tuo giudizio sulla qualità della nostra università? Tu che hai girato un po' di atenei in Europa, tra poco diciamo anche quali. Per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che la prima differenza che ho notato è che all'estero c'è un approccio maggiormente pratico rispetto verso la materia rispetto alla nostra università. Noi andiamo forte sulla teoria e questo è sicuramente un punto a loro favore. Partiamo dalla prima esperienza Erasmus, quella in Spagna, Paesi Baschi, semestre a Bilbao. Perché decidi di partire in primis per un periodo all'estero? Desiderio di fare nuove esperienze oppure la coscienza dell'imprescindibilità di fare l'Erasmus ormai? In generale mi piace molto viaggiare ed era da sempre il mio desiderio avere un'esperienza di studio all'estero per conoscere e vivere un'altra cultura magari. Quindi sentii molto parlare bene del progetto Erasmus da altre testimonianze di altri studenti che avevano passato un periodo all'estero per studio e quindi nulla, decidi di partire. Che ambiente di insegnamento hai trovato ad accoglierti? Quali le differenze anche tra università spagnola e italiana? Quella a Bilbao fu la mia prima esperienza di vita all'estero. All'inizio sembrava tutto abbastanza difficile, ma perché non conoscevo la lingua, non conoscevo i miei colleghi. Ma a parte la prima settimana, poi successivamente è tutto in discesa. Anche a livello di studio, quindi, non solo sì, di... Sì, anche a livello di studio, sì, dopo che impari la lingua, sì. Questo primo Erasmus mi fece venire voglia di fare altre esperienze all'estero, ricordi, promessa che hai fatto a te stessa e che hai anche mantenuto. Prima però ti chiedo, com'è stato il rientro in Italia dopo la prima esperienza all'estero? Hai visto questa esperienza riconosciuta e valorizzata in qualche modo? Il rientro in Italia non è stato semplice dal punto di vista emotivo, perché comunque dopo avermi costruito una vita nuova all'estero ho dovuto lasciare tutto all'improvviso. Per quanto riguarda invece il percorso accademico, diciamo che questa esperienza mi ha arricchito particolarmente per quanto riguarda dal mio bagaglio di conoscenze. E quindi una volta che sono entrata in Italia, sì, ho trovato un indice dagli esami, perché magari c'erano argomenti che avevo approfondito maggiormente in Spagna, ma la cosa di cui sono più grata a questa esperienza è di aver imparato una nuova lingua sicuramente. E qualche mese fa decidi di candidarti a un nuovo progetto Erasmus, il cosiddetto Erasmus Traineeship. Perché opti per il tirocinio? Stavolta opto per il tirocinio perché volevo sperimentare quello che è il mondo del lavoro nel mio settore, quindi diciamo volevo concretizzare quello che studio. Avevo la possibilità sia di svolgerlo nella mia città, quindi a Sassari, o all'estero, quindi giustamente scelsi di svolgerlo. E perché la Grecia? Scelgo la Grecia perché prima di iniziare i miei studi universitari avevo studiato in un liceo classico, mi ero appassionata molto alla storia dell'antica Grecia e nulla, avrei voluto già vivere un periodo in Grecia quando ero più piccola, quindi nulla, ho deciso di realizzare questo mio sogno, diciamo. E così approdi appunto nella penisola ellenica, preceduta dal poco entusiasmo di chi ti stava vicino, perché l'immagine di Atene appannata dalla crisi e dalla povertà non rappresentava certo un buon biglietto da visita. Ma a viaggiare serve anche a questo, a sfatare luoghi comuni. Che città hai trovato ad accoglierti? Diciamo che è vero, l'immagine che ci offrono la Grecia, comunque che ci offrono i telegiornali, diciamo non è positiva. È una città dove regna il caos, scontri, manifestazioni, questo è assolutamente vero. Però la prima cosa che ho potuto notare qua, ad esempio, è stata la grandissima ospitalità dei greci. Comunque la città a me piace molto. In generale ho viaggiato un po', ho visto qualche isola e davvero sono rimasta davvero stupita in modo positivo, quindi mi trovo benissimo. E andando più sullo specifico della tua esperienza, come si sta rivelando questo progetto di tirocinio e su cosa stai lavorando? Qua da te lavoro nel laboratorio di genetica molecolare e microbica dell'Università Capodistriana e lavoro in particolare su un progetto di clonazione molecolare, quindi su un batterio che è in grado di produrre etanolo degradando alcuni tipi di zuccheri. Con una serie di esperimenti vogliamo creare un plasmide che contiene dei geni che ci interessano, in modo da poter incrementare la produzione di etanolo attraverso la degradazione di altri tipi di zuccheri, quindi modificare questo batterio. Vitalia, dopo la Grecia e ritorno a casa, dove vedi il tuo futuro? Sei pronta a fare ancora le valigie? E se sì, ancora per studio oppure per cercare lavoro all'estero stavolta? Sì, sono pronta a rifare le valigie e diciamo che il percorso di studi non è breve, quindi sicuramente spero di avere altre opportunità di studio all'estero. Probabilmente un domani cercherò un lavoro all'estero, ma spero comunque di tornare in Italia. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Vitalia Pes, 21enne studente in tirocinio Erasmus Plus in Grecia. Dopo una prima esperienza a Bilbao, Vitalia decide di puntare su Atene per approfondire le sue conoscenze nel settore della ricerca scientifica. In Grecia, Vitalia ha scoperto un paese che, a dispetto della crisi, ha tanto da offrire e non solo in termini formativi. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. La tua regione, la Sardegna, ha inaugurato tempo fa un progetto molto interessante, Master and Back, per permettere ai suoi giovani di formarsi all'estero e tornare poi in regione per importarvi le conoscenze apprese. Ottime le premesse, risultato però poco incoraggiante. Semplicemente più della metà dei partecipanti non sono tornati. Cosa manca secondo te? Cosa andrebbe fatto per rendere la tua regione una terra di opportunità? Beh, a mio parere si dovrebbe maggiormente investire sui giovani, quindi quella del Master and Back è sicuramente una buona idea, ma oltre a questo si dovrebbe investire maggiormente sui settori per i quali la regione invia i giovani a formarsi all'estero. Quindi magari semplicemente limitare l'offerta di formazione all'estero solo per i settori dove la regione può offrire lavoro. E domanda di rito per te, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Io penso che davvero pochi dei giovani che emigrano vorrebbero realmente lasciare l'Italia e come dicevo prima a mio parere bisognerebbe maggiormente investire sui giovani e produrre maggiore offerta di lavoro nei settori per i quali si aiutano questi a formarsi. Ci raggiunge ora in linea Valeria Biggi dell'agenzia Indire, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Torniamo per un attimo a parlare di Erasmus Traineeship, il progetto che fornisce qualcosa in più rispetto al classico Erasmus. Esattamente a chi si rivolge e cosa offre? Si rivolge a tutti gli studenti universitari del primo anno fino al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione che sono iscritti presso atenei, conservatori, accademie di belle arti, scuole superiori per mediatori linguistici che partecipano al programma Erasmus Plus. Ed è, diciamo, questa mobilità offre la possibilità di svolgere all'estero una esperienza di formazione professionale presso un'impresa che ha stipulato un accordo e un programma di tirocinio con l'Istituto di Istruzione Superiore di provenienza dello studente e quindi possiamo dire che come la mobilità per studio è un'esperienza offerta di 360 gradi e impatta su tanti aspetti della vita. Chiaro, anche perché personale. Appunto inserisce il lavoro. Quante borse per tirocinio all'estero avete erogato finora? Dunque, per ora nel 2015-2016 le borse totali tra studio e traineeship sono 34.000, quindi veramente un ottimo risultato con un incremento del 10% rispetto al 2014 e in particolare per quanto riguarda le borse per traineeship sono state erogate sempre nel 2015 più di 7.600 borse destinate a laureandi e a neolaureati. Qual è l'identikit del giovane che si candida a un tirocinio Erasmus? sta sui 25 anni, nella maggior parte dei casi si tratta di una studentessa, e sceglie una permanenza media di 3 mesi all'estero. Generalmente proviene da percorsi di studio in ambito linguistico, seguito da corsi di laurea in giurisprudenza, medicina, architettura e scienze politiche. I tre paesi dove si va maggiormente? La meta prescelta è la Spagna, seguita da Regno Unito, e poi Germania, Francia e Belgio. Che tipo di imprese sono normalmente coinvolte? Quali settori dove si va a fare tirocinio? In linea con le aree disciplinari di provenienza, i settori economici maggiormente richiesti per un tirocinio all'estero sono attività addette alla formazione, e attività poi professionali, scientifiche e tecniche. Diciamo, ricordiamo che per impresa soprattutto si intende non solo l'azienda tout court, ma anche enti pubblici, associazioni, centri di ricerca, laboratori come la nostra Vitalia, musei, orchestre, teatri. Le chiedo, noi siamo attrattivi come paese per i tirocinanti Erasmus stranieri? Sì, l'andamento è positivo, così come la mobilità per studio. Anche per quanto riguarda la mobilità in entrata per tirocinio, l'Italia occupa il 5° posto per numero di stagisti accolti, dopo Spagna, Regno Unito, Germania e Francia. Le imprese sono sempre più sensibili, grazie anche alla campagna di informazione territoriale da parte degli Atenei, che portano a conoscenza delle realtà economiche locali il valore aggiunto che può dare loro la partecipazione al programma Erasmus+, cioè in termini proprio di expertise, di conoscenze fresche, aggiornate, proveniente dal mondo accademico, in particolar modo da un mondo accademico internazionale. Meno male, anche perché abbiamo bisogno di aprirci e internazionalizzarci. Ultimissima cosa, una segnalazione: dal 7-9 maggio Erasmus si trasferisce a Firenze, Festival d'Europa. Quali attività in brevissimo presenterete in questi 3 giorni? Saranno dei giorni di approfondimento su tutti i settori, dedicati a tutti i partecipanti al programma Plus, attraverso racconti, interviste, performance, fino ad arrivare all'appuntamento finale che vedrà Ponte Vecchio illuminarsi di blu. Sarà un appuntamento quindi vissuto principalmente nelle piazze, e in nome della socializzazione e del coinvolgimento concreto della città. Grazie a Valeria Biggi e buon lavoro. Domanda di rito per Vitalia PES: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento sta pensando di andare a studiare all'estero? Beh, gli consiglierei di non pensarci due volte. Al di là del fatto che possa desiderare domani di avere un futuro in Italia o all'estero, un'esperienza all'estero è comunque qualcosa che ti arricchisce e ci fa vedere il mondo secondo un'altra prospettiva, e questo ti permette appunto realmente di fare delle scelte e quindi capire cosa realmente si desidera per il futuro. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una manager per la comunicazione, anche digitale, per Eli Lilly a Bruxelles in Belgio. Scadenza per i CV domani, curricula a jobs_lillybelgium@lilly.com. Un ingegnere per Livanova a Losanna in Svizzera, scadenza per i CV oggi, info su livanova.com. E infine un ingegnere nucleare all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, scadenza per i CV 3 maggio, info su iaea.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Ultimo sabato di aprile, tornano dunque le lettere che inviate ogni settimana a giovanitalenti@radio24.it con le vostre riflessioni, le vostre denunce e le vostre proposte sul tema dei giovani e del crescente flusso migratorio all'estero. Voi continuate a scriverci, la prossima a venire letta in onda potrebbe essere proprio la vostra di lettera. E oggi vi proponiamo la splendida missiva che ci ha inviato Elisa. Lei in Italia ha deciso di restare. Caro Sergio, sono insegnante di spagnolo qui in Italia, nella scuola pubblica. Ti scrivo, forse uscendo un po' dal tema principale del tuo programma, ma vorrei raccontarti il perché e la mia storia brevemente. Sin da piccola avevo maturato il desiderio di diventare un insegnante. Giunta all'università, ho iniziato a recuperare pareri ed informazioni per capire come funzionava il sistema di istruzione in Italia. A detta di quasi tutti coloro i quali avevo interpellato, insegnanti della scuola primaria, della scuola secondaria, universitari e sindacati, la risposta era unanime. Un vero disastro, non c'è posto, lascia perdere. Quello che mi faceva più male era questo «lascia perdere», perché io volevo perlomeno provarci. È proprio per questo che ti scrivo, perché vorrei che chi decide di rimanere qui con un sogno non mollasse al primo ostacolo. Io volevo restare qui perché capivo e capisco che la professione dell'insegnante può aiutare questo paese a migliorare. Quando mi sono recata in Messico per un'esperienza di studio all'Università di Quintana Roo di Chetumal, non potevo credere ai miei occhi. Solo per il fatto di essere italiana, mi fu proposto di tenere delle lezioni di conversazione per gli studenti di italiano. La facilità con cui ero salita in cattedra mi aveva stupito. Durante la laurea magistrale ho potuto seguire il master di primo livello dell'Università di Udine, che mi avrebbe consentito di potermi spostare all'estero per svolgere la professione di insegnante di italiano agli stranieri. Una volta laureata, ho poi partecipato al concorso di selezione per il TFA, il percorso abilitante che mi ha consentito l'accesso al concorso 2016. I posti per la mia materia erano 15 in regione. Lo scorso agosto ho scoperto di essere arrivata quindicesima. Dai colleghi mi sono sentita dire che, al concorso, sono passati i raccomandati. Io avevo solo studiato e, soprattutto, ci avevo davvero creduto. Quest'anno non entrata in ruolo, ma il posto l'ho vinto. Spero di aver dato un piccolo contributo con la mia testimonianza. Un motivo per restare o tornare. L'Italia prova a competere sul mercato sempre più appetibile della formazione superiore, lo fa con l'obiettivo di potenziare la cultura e la lingua tricolori e raddoppiare soprattutto il numero di studenti stranieri iscritti nelle nostre università di eccellenza. Il primo piano strategico per la promozione oltre confine della formazione superiore italiana, messo a punto dal Ministero degli Esteri col MIUR, punta su un menù di interventi che, da qui al 2020, prevedono la semplificazione delle procedure di accesso ai corsi, la valorizzazione della lingua e cultura italiana nel mondo parallelamente al potenziamento dei percorsi formativi in inglese nel nostro paese, fino alla creazione di antenne nei vari stati esteri per promuovere i nostri istituti di formazione. Ricordiamo che gli stranieri nei nostri atenei sono solo 72.000, appena il 4%. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internectivo. L'ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo anni all'estero, under 40 stranieri al lavoro in Italia, neanche di giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, Giovani Talenti allora è la vostra trasmissione. E per questo vi invitiamo a candidarvi iscrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email insieme ai vostri racconti per partecipare all'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona festa del lavoro da Sergio Nava.